Smart City, la città intelligente. Un saluto da Maurizio Melis. Si chiama Progetto Dorothy, è un progetto europeo che ha al centro la regione Toscana ed è un crogiolo di idee innovative per quanto riguarda la mobilità delle merci. Per parlarcene, Chiara Albicocco ha incontrato Marco Scerbo, relatore della Fondazione per la Ricerca e l'Innovazione promossa da Università e Provincia di Firenze, che è a capo di questa iniziativa. Sentiamo. Dorothy è un progetto finanziato grazie a fondi dell'Unione Europea ed ha come scopo quello di far nascere poli di innovazione sulla scorta dell'intuizione dei poli di innovazione promossi dalla Regione Toscana in regioni partner come Spagna, Portogallo e Romania. Il focus di questo polo di innovazione nascente dovrà essere il tema della logistica urbana. Questo modello ovviamente si confà di alcune particolarità. Voi avete individuato delle nuove tecnologie, delle nuove soluzioni che in qualche modo si possono applicare alla logistica delle merci, soprattutto in quella che è la distribuzione più urbana, quindi nel centro e in particolare in Toscana avete tantissimi centri storici. Ecco. Sì, diciamo che l'hardware, l'infrastruttura della rete urbana è dato, è difficilmente modificabile ed è per lo più congestionato. Dalla nostra esperienza sappiamo benissimo che purtroppo oltre un terzo del tempo che percorriamo sulle nostre strade non lo impieghiamo per cercare parcheggio. Le possibili soluzioni sono quelle di ottimizzare i flussi di merci e di traffico di persone all'interno della rete, ottimizzando le informazioni. Se non riuscissimo a sapere quali tipi di merci viaggiano sulle nostre strade e devono essere consegnate in determinati periodi della giornata o facendo riferimento ad eventi straordinari come le festività natalizie, i periodi vacanzieri, potremmo ottimizzare sulla rete stradale la compresenza di persone e merci. Lei dice quindi, se avessimo i dati, ma i dati insomma ci sono un po' confusi, non uniformi, insomma c'è un po' un minestrone. I dati sì, sono così, ma possono essere diciamo migliorati. Basta pensare ecco, che i centri di monitoraggio degli accessi ai centri storici, per esempio le zone a traffico limitato, hanno delle telecamere. Noi sappiamo benissimo che questi sensori possono monitorare non solo quali tipi di mezzi accedono all'interno dei centri urbani, ma anche quali tipi di merci possono viaggiare all'interno di questi centri urbani, e da questi dati indirettamente ricavare le informazioni che a noi serve, cioè sapere cosa deve essere trasportato nei negozi, nei centri commerciali urbani e quando è il momento migliore per fare questa consegna e ritiro delle merci per non impattare sulle altre attività antropiche che hanno un picco nel centro urbano. E addirittura voi pensate di utilizzare, come dire, la rete tranviaria, la rete del servizio pubblico di trasporto anche per l'utilizzo delle merci, magari in orari diversi da quelli in cui vengono utilizzati dalle persone, di notte ad esempio. Diciamo che questa è un'esperienza pilota in Europa, forse non è ancora un'idea quasi geniale, anche sì, se sì, sembra l'uovo di Colombo. Differenziare per esempio l'utilizzo delle infrastrutture nelle diverse fasce giornaliere ci potrebbe consentire di ottimizzare la distribuzione delle merci e questo ridurrebbe gli impatti anche dal punto di vista ambientale, perché meno tempo noi spendiamo sulla nostra rete infrastrutturale urbana, meno emissioni in atmosfera produciamo e ovviamente più traghettiamo verso un futuro sostenibile le nostre città. E dunque come vi state muovendo? Quali sono le prospettive per rendere più concreti questi nuovi strumenti? Innanzitutto dobbiamo fare presente che la politica principale che noi promuoviamo è quella del trasferimento tecnologico, cioè ricercare quali sono le tecnologie innovative oppure gli spunti di ricerca più interessanti all'interno di un determinato territorio e cercarle di farle incontrare con esperienze di imprese innovative, start-up che possono produrre sul mercato una reale innovazione. Per cui noi stiamo cercando di, nel nostro territorio, nel territorio delle regioni partner, di evidenziare quali sono queste particolarità, le peculiarità del territorio in tema di ricerca e innovazione sulla mobilità e cercare di far incontrare questi soggetti tra di loro per proporre delle proposte politiche interessanti alle nostre regioni e agli enti locali che sono in carica di proporre soluzioni innovative sulla mobilità per traghettare nel medio periodo questi territori verso appunto un'ottimizzazione, addirittura prevedere dei piani della logistica che possono migliorare la vita nelle nostre città. Ecco, questi sono incontri reali, nel senso che organizzate proprio giornate in cui le aziende e gli enti di ricerca, chi fa innovazione, si incontrano, si sentono quali sono le esigenze e quali possono essere le possibili soluzioni, giusto? giusto? Organizziamo frequentemente incontri di matchmaking e in particolare all'interno della cornice del progetto Dorothy stiamo organizzando dei focus con le imprese operanti negli interporti per far appunto una tavola rotonda da cui far uscire delle proposte interessanti e credibili. Grazie Chiara Albicocco e a Marco Scerbo da Maurizio Melis, buona serata.